in primo piano. Anche se la notizia del giorno, quella con cui aprono molti, è quella dello scudo fiscale. Oggi è il giorno decisivo, insomma, lo scudo fiscale che attende la votazione definitiva. La Camera voterà la fiducia e l'apertura del Sole 24 Ore. Lo scudo guarda all'impresa, oggi la fiducia. Così come Repubblica, scudo fiscale da 300 miliardi è il titolo. La Stampa, il governo blinda lo scudo fiscale, è l'identico il titolo di apertura anche del Messaggero. Il Corriere della Sera apre invece con la notizia per la quale insomma avete sentito anche il GR24, è arrivata nella notte, nella tarda serata. Tsunami, terrore alle Samoa, le isole Samoa nel Pacifico, ci sarebbero diversi morti, almeno un centinaio, insomma, torna l'incubo dello tsunami, mentre a centropagina c'è scudo, tensione sulla fiducia, parte il pressing per la proroga. Ora ci sono diversi commenti, come detto l'apertura del Sole 24 Ore che dedica l'intera pagina 3, ma anche la pagina 5 con tutti i chiarimenti delle entrate. E tra l'altro da venerdì sarà in edicola anche scudo fiscale, tutte le indicazioni per la sanatoria, un volume insomma legato al Sole 24 Ore per capire qualcosa di più riguardo a questo provvedimento che tanto sta facendo discutere. Sul Sole 24 Ore c'è anche la prudenza, l'ordine di scuderia, prudenza e cautela sulle cifre, quel 300 miliardi che ho citato. All'estero 300 miliardi, ma il ministro frena. L'ordine di scuderia è sempre lo stesso, appunto prudenza e cautela sulle stime legate ai capitali detenuti all'estero e sottratti al fisco, occorre una valutazione estremamente cautelativa. Parlare di quasi 300 miliardi di patrimoni nascosti sembra andare nella stessa direzione di quelle stime internazionali che secondo lo stesso Tremonti sarebbero troppo importanti ed eccessive, rappresentando il 60% del PIL mondiale. Questo si legge all'interno del Sole 24 Ore. Diciamo che ci sono poi vari commenti anche su gli altri giornali. Per esempio, interessante l'intervista che il Corriere della Sera, Maria Antonietta Calabro, fa al professor Pier Alberto Capotosti, che è stato presidente della Corte Costituzionale e anche vicepresidente del CSM, e il quale dice: ricorsi possibili per il falso in bilancio. Sostanzialmente Capotosti prima analizza la firma di Napolitano e dice: se il capo dello Stato accompagnerà la sua firma con delle note, seguirà una prassi che ha già usato in altre occasioni. Si tratta di una moral suasion, un provvedimento secondo me più efficace di quello di negare la firma e rimandare la legge in Parlamento. Un atto traumatico certo, ma non produce effetti perché il Parlamento può riapprovare lo stesso testo. E però poi dice Capotosti: c'è in realtà secondo me un profilo di costituzionalità che può essere rilevato in questo provvedimento. Vale a dire? Beh, sul falso in bilancio il paragone va fatto rispetto a un cittadino che falsifica i bilanci per lo stesso scopo mantenendo però i fondi in Italia. Il problema è che il reato di falso in bilancio nel caso in cui lo abbia fatto uno all'estero non è perseguibile, mentre se i fondi sono rimasti in Italia è perseguibile. In questa discrasia c'è per Capotosti la possibilità di fare ricorso da parte di alcune procure, quando ci saranno i processi, alla Corte Costituzionale. Oltre allo scudo fiscale, l'altro tema economico che troverete oggi sui giornali è quello che è evidenziato a pagina 4, in un'intera pagina sulla Stampa: doppio no ai Tremonti bond. Che succede? Cioè Intesa San Paolo e Unicredit hanno deciso sostanzialmente non useranno gli strumenti governativi. Doppio no ai Tremonti bond, si legge in questo articolo. Appunto, Unicredit e Intesa San Paolo hanno deciso ieri in perfetta sintonia di non fare ricorso agli strumenti governativi e tra l'altro si legge più avanti sostanzialmente: Intesa San Paolo e Unicredit stabiliscono invece che alla luce delle nuove condizioni di mercato quei bond non sono l'opzione più conveniente, sia perché implicano un interesse annuo lordo che va dal 12,6 a uno stratosferico 22,2%, 5%, sia perché all'Atere impongono una serie di controlli sulla concessione del credito che ai banchieri piacciono poco. Prevedibili dunque reazioni del ministro. Tra l'altro anche il Sole 24 Ore, l'apertura dell'allegato Finanza e Mercati, dedica proprio a questo, ma non solo. Generalmente Unicredit ieri ha varato l'aumento all'unanimità, l'aumento, il maxi piano di rafforzamento patrimoniale del gruppo negli ultimi 12 mesi. Il titolo è proprio questo: Unicredit vara l'aumento, ma no ai Tremonti Bond. È la notizia subito sotto che viene analizzata appunto anche sul Sole 24 Ore. Dicevamo, è il nostro sondaggio ed è un tema che sui giornali davvero riempie le pagine. Le esternazioni del ministro Brunetta un paio di giorni fa, la presentazione di un libro che peraltro abbiamo anche presentato noi qualche mese fa, quello di Stefano Livadiotti, Magistrati, l'ultracasta. Brunetta ha detto sostanzialmente: in molti tribunali dopo le 14 c'è il deserto, i magistrati vanno a casa, ci vorrebbero i badge per controllarne la produttività, gli orari di lavoro. Ieri poi il portavoce del ministro Brunetta con una nota ha citato in realtà una parte del libro di Livadiotti in cui si evoca addirittura il braccialetto elettronico. Questo è il titolo di libero, braccialetto elettronico ai magistrati, l'ANM, che è il sindacato dei magistrati, attacca Brunetta che risponde per le rime, per Alfano troppo forte la reazione delle toghe, ma ne sono pieni i giornali, nel senso che ci sono interviste e commenti, chi è a favore, chi è contro, ed è quello che vi chiediamo anche noi, che ne pensate. Repubblica per esempio, CSM Brunetta, scontro aperto sui magistrati, lo potete leggere a pagina 4. Mancino, che è il vicepresidente del CSM, dice basta violenza verbale. E c'è anche un'intervista a Giulia Bongiorno, avvocato parlamentare, che dice il ministro Brunetta ha il merito di individuare i problemi che esistono, in questa intervista a Liana Milella. Ma non condivido né i suoi toni né la scelta di generalizzare. Il punto, dice la Bongiorno, è il dislivello di produttività tra i magistrati. Il ministro vuole i tornelli, chiede i badge, userebbe l'espressione braccialetto. Lei che ne pensa? Sono contraria a questi metodi di controllo. La produttività di un magistrato non può essere misurata col disco orario, anche perché stiamo parlando di un lavoro intellettuale che va valutato, per esempio, esaminando il numero e la natura dei provvedimenti che ciascuno di loro assume. Ma lei vede le toghe come fannullone? Moltissimi magistrati lavorano la domenica o anche al di là degli orari di lavoro, altri invece spariscono anche prima delle 14. E poi insomma sugli altri giornali, il giornale: toghe in trincea per difendere i PM fannulloni, questo è il titolo, con un commento di Anna Maria Bernardini De Pace, uno degli avvocati più celebri in Italia, anche più popolari, che è molto dura. Dice: io sono figlia di un magistrato e quindi sono nata e cresciuta nel rispetto dei giudici e con l'amore per la giustizia. Ma poi scrive più avanti l'avvocato Bernardini De Pace: ci sono giudici prepotenti che gestiscono con fastidio e arroganza le udienze, incapaci anche di ascoltare le parti e i legali, sordi a ogni legittimo e sacrosanto gesto di difesa. So di altri e altre che conducono amicizie pericolose e molto sessuali con avvocati e avvocatesse che patrocinano nel loro stesso distretto. Di altri ancora che hanno uno stile di vita molto più costoso di quanto il reddito, ora pur significativo, possa permettere. Ma so soprattutto di giudici che hanno precise e forti passioni politiche, che riversano senza equilibrio e onestà in tutti i provvedimenti e nell'attività giudiziaria. Di PM che trascurano rapimenti e molestie, ma anche omicidi, per aggredire invece qualcuno appartenente alla parte politica avversa, con, per esempio, plurime contravvenzioni per abuso edilizio. Insomma, il tema appassiona molto i commentatori. Oggi anche Stefano Folli, nel suo consueto punto, il tema è dedicato a questo, sul Sole 24 Ore: quando le tensioni sulla giustizia allontanano le riforme. Scrive Folli: l'aspra polemica tra il ministro Brunetta e l'Associazione Nazionale Magistrati è emblematica di una certa tendenza tutta italiana. Si gridano le proprie ragioni in modo urticante, ci si dà sulla voce al punto che un osservatore esterno perde il filo, si ottengono titoli sui giornali, 2 o 3 giorni dopo le acque si calmano, si passa oltre, mentre i problemi sollevati restano tali e quali. E poi Folli dice: Brunetta ha ragione nella sostanza quando invoca maggiore efficienza e maggiore dedizione al lavoro. Allo stesso modo non ha torto quando solleva un tema controverso, vale a dire l'iperpoliticismo delle correnti che governano l'ordine giudiziario. Eppure, scrive Folli, il problema è che si può riuscire ad aver torto anche quando si ha ragione. Non è chiaro infatti quale risultato Brunetta ponga di ottenere coi suoi ripetuti attacchi pubblici. Il sostanzialmente Folli dice: il ministro Brunetta ha ragione nella sostanza, ma il metodo è quello sbagliato. E tra l'altro in questa pagina dedicata interamente al tema, Lionello Mancini intervista uno di quelli che era considerato tra i più efficienti procuratori italiani, il procuratore capo di Bolzano, Cuno Tarfusser, uno che è stato preso ad esempio perché ha ristrutturato la sua procura in maniera molto efficiente. Che succede? Non è più in Italia, è stato, secondo il Sole 24 Ore, esiliato all'Aia, è stato scelto dal governo, immagino anche con sua richiesta e sua soddisfazione, di andare alla Corte Penale Internazionale dell'Aia. Ma oggi Tarfusser, da lontano lì dall'Aia, dice: vedere dal mio esilio olandese queste discussioni mi rattrista, perché vedo il bene giustizia utilizzato come strumento di lotta politica. Tra l'altro, su questa vicenda Giustizia e Affini fa discutere, e lo trovate sui giornali, Il Messaggero per esempio, un'intera pagina: Guido resta libero. Chi è Guido? Gianni Guido è uno dei tre autori della strage del Circeo, 29 settembre 75, insieme ad Angelo Izza ed Andrea Ghira. È libero definitivamente, il giudice ha deciso, non è pericoloso, ha scontato la sua condanna, ovviamente con annessi benefici, con annessi sconti di pena. Un tema che Il Giornale tratta così, con un editoriale di Mario Cervi: che vergogna, la belva del Circeo in libertà. Veniamo ai temi di politica e TV, si può dire, perché ieri ne abbiamo parlato e oggi trovate, ecco qui, il governo controlla Dandini. L'avevo detto ieri che quella scena, quella fiction delle ragazze chiuse in un bagno che si preparavano ad una festa avrebbe, e il bagno era quello di Palazzo Grazioli, avrebbero fatto discutere. E infatti il governo controlla Dandini, pagina 6 del Corriere, non fa servizio pubblico. L'attacco di Romani, che è viceministro: mi risulta che Serena Dandini mandi in onda una recita di 3 minuti con ragazze non meglio identificate nei bagni, ricostruiti in studio di Palazzo Grazioli. Mi chiedo cosa c'entri questo col servizio pubblico. E allora gli chiedono i giornalisti: dopo Anno Zero state per aprire una nuova istruttoria per il programma della Dandini, non fatemi dire ciò che non ho detto. Però certamente questo fa discutere e farà discutere in questi giorni. Tra l'altro, da qui ripartiamo, la campagna di Libero il Giornale contro il canone Rai continua subito dopo il traffico. In primo piano, la Rai ficca il naso nel VUCI del Premier. E questo è il titolo del giornale che continua la campagna, diciamo, contro il canone Rai. Vittorio Feltri proprio scrive un editoriale: e poi ci dicono che bisogna pagare il canone Rai. Parla con me, questa è la trasmissione della Dandini. Scrive Feltri: l'esordio è stato un tripudio di stupidità, rivelato immediatamente le intenzioni degli autori. Sfottere, indovinate chi? Ma certo, proprio lui, Silvio Berlusconi. Qualcuno avrà visto il capolavoro in questione, le telecamere finite più in basso che si può, nella toilette del Premier, dove, come in ogni rispettabile gabinetto, campeggiava un VC. Accanto al water, due ragazze nel ruolo delle escort, ovvero puttane, entrate a Palazzo Grazioli per partecipare a un festino e rimaste invece intrappolate nel cesso. Non vi dico quel che è seguito perché la carta costa cara. Va avanti Feltri: il contratto della Dandini non è da fame, 710.000 euro l'anno. È giusto darle tanto denaro in cambio di visite guidate nei bagni della residenza romana del Cavaliere? Abbiate fiducia, è arrivato il momento, mandiamoli a casa. Così si conclude l'editoriale di Feltri. All'interno pagine e pagine su questo tema della Rai, un profilo anche di Giancarlo Perna su Serena Dandini. Così Rai prende il canone e va del fisco, questo è il titolo d'apertura di Libero. Insomma, la campagna continua, molto dura, molto serrata su questo fronte da parte di Giornale Libero. C'è anche da analizzare sul giornale: ieri Berlusconi è andato all'Aquila a consegnare molte case per i terremotati, era anche il compleanno di Berlusconi, e il giornale proprio dedica una pagina sullo spirito anche di Berlusconi. Le barzellette, le nuove barzellette, le volete sapere? Che ha raccontato Berlusconi. Negli Stati Uniti una signora mi ha detto che dimostro 53 anni, la sto ancora cercando. E poi a degli operai: avete fatto grandi sacrifici, 3 turni di lavoro al giorno, ora potrete consolarvi con 3 turni per divertirvi con le vostre fidanzate. E poi, su Umberto Bossi, sapete come fa l'amore? La Lega. Queste le ultime barzellette di Berlusconi. Cambiamo tema lasciando la politica e voglio tornare su Libero per segnalare questa notizia che è un po' inquieta, il giallo di Garlasco. C'era una donna quando uccisero Chiara. Questo è il titolo in prima pagina di Cristiana Lodi e Il Servizio, una svolta nel giallo di Garlasco. Poi bisognerebbe sempre usare il condizionale, ma insomma il titolo è emblematico. C'è l'orma di una scarpa da donna nella villetta dove Chiara è stata uccisa, scrive Cristiana Lodi, e quella suola appartiene all'omicida o al suo complice. La presenza di 2 distinte persone sulla scena del crimine è stata accertata dal perito nominato dal giudice che deve decidere se assolvere o condannare Alberto dall'accusa di aver ammazzato la fidanzata. E poi all'interno, insomma, ci sono 2 pagine su appunto questa svolta che ci sarebbe in questo incredibile giallo. Un'orma di donna accanto a Chiara. Ci sono anche quelle che sono ricostruite con delle infografiche, con dei disegni per la verità, quelli che sarebbero gli errori commessi dagli investigatori. Un'inchiesta davvero che, se così confermata, avrebbe comportato, insomma, degli errori clamorosi. Il primo: il giorno del sopralluogo, un carabiniere scivola sulle macchie di sangue, rotola giù per le scale modificando la scena del delitto. E c'è proprio il disegno del carabiniere che cade. Secondo errore, il PM Rosa Muscio lascia l'impronta della sua scarpa sul pavimento di casa Poggi. Terzo errore, il gatto, Piuma, viene rinchiuso nella villetta per 3 giorni e ovviamente girando per casa compromette la scena del delitto. Quarto, il colonnello dei carabinieri, vedendo la scena del delitto, sta male, corre in bagno a vomitare. Completa l'opera aprendo lo sciacquone del WC, cancellando dunque eventuali tracce. E infine, il RIS dei carabinieri fa arrestare Alberto sulla base di tracce di sangue sui pedali della sua bici, ma in realtà sono funghi e non globuli rossi. Queste sarebbero le incredibili vicende dell'inchiesta di Garlasco, secondo Libero. Tra l'altro siamo in veloci segnalazioni di chiusura. Vi segnalo che ci sono tante pagine su Colf e Badanti, un flop annunciato, questo è il titolo della Stampa. Oggi si chiude la sanatoria, ne parleremo anche a Soldi e dintorni alle 8:15, subito dopo Oggi GR 24. C'è un'intervista ad Alfredo Mantovano che dice: altro che fallimento, abbiamo fatto emergere dal nero 260.000 persone, per alcuni tutto quello che fa il governo è un fallimento, invece altro che flop, per me questo è un successo. Anche sul Corriere: chiude la sanatoria, 300.000 domande, metà del previsto, quindi insomma non sarà un fallimento, ma se ne aspettavano certamente molte di più. Alcune segnalazioni per chiudere dal Corriere della Sera: pediatra per 19 anni senza laurea. Era dirigente all'ospedale di Rho, un pediatra bravissimo, un'infinità di bambini guariti e guardi, una competenza che non le dico, non c'è un genitore che neghi questa cosa. Se non era in corsia stava in ambulatorio, se non era in ambulatorio era a parlare di pediatria in qualche convegno, peccato che non fosse un pediatra, anzi, in verità neanche un medico. Si tratta del professor, o meglio professore a questo punto no, Marco Bassi, 54 anni. Che si è scoperto non ha mai neanche terminato gli studi di medicina e chirurgia, anzi nei registri dell'Università di Padova risultano 6 esami. È stata un'incredibile scoperta fatta in questi giorni dall'azienda ospedaliera Salvini di Garbagnate, da cui dipende appunto anche Rho. Insomma, ci sono le foto di questo presunto pediatra che per 19 anni ha detto che era un pediatra, giudicato bravissimo da tutti i pazienti, però incredibile insomma questa vicenda che trovate sui giornali. Con questa mi fermo.